Europa 24. In studio Daniele Biacchesi, in primo piano subito le priorità europee del 2016. La presidenza di turno olandese dell'Unione muove i primi passi in un momento delicato, forse più delicato di molti altri. Lo vanno ripetendo gli eurodeputati dei Paesi Bassi e nessuno si sogna di contraddirli. L'anno è cominciato con le aggressioni in Germania, le molestie, probabilmente organizzate, hanno riavvicinato ai migranti parole come paura, odio, respingimenti. Nel semestre l'Olanda intende migliorare l'accoglienza iniziale dei rifugiati in Europa, con un'equa ripartizione degli oneri. Allo stesso tempo vorrebbe assicurare condizioni sicure di reinsediamento in paesi terzi. Senza dimenticare le frontiere, il rafforzamento dei controlli sembra un passaggio fondamentale anche per tutelare Schengen. Le frontiere aperte sono alla base dell'Unione. Il presidente della Commissione Juncker ritiene un dovere collettivo quello di salvare il sistema della libera circolazione attraverso l'Europa. Juncker vorrebbe un accordo sulla proposta di istituire l'Agenzia delle Guardie di Frontiere Europee entro giugno. Ma bisognerà pensare anche al terrorismo. Una riforma del settore sicurezza è attesa entro metà anno. L'Olanda vorrebbe puntare su un sistema integrato, uno scambio di informazioni più efficace. E poi c'è il capitolo Gran Bretagna, perché la Brexit è sul tavolo e Cameron ha già presentato la sua lista di condizioni per restare nell'Unione. Il tutto senza mai mettere da parte l'economia, perché il prezzo del greggio ai mercati asiatici non ci permettono di dormire sonni tranquilli. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il numero di migranti che attraversano il mare Egeo dalla Turchia alla Grecia per raggiungere l'Unione Europea è ancora nettamente troppo elevato, nonostante l'accordo di novembre con la Turchia per limitare il passaggio. Lo ha detto il primo vicepresidente della Commissione UE, Frans Timmermans, in visita nella capitale turca. I numeri sono ancora nettamente elevati in Grecia, tra i 2.000 e i 3.000 arrivi al giorno. Non possiamo essere soddisfatti in questa fase, ha detto Timmermans in una conferenza stampa congiunta con il ministro turco Bozkir. Le sanzioni economiche contro l'Iran saranno tolte abbastanza presto, è quanto ha detto di attendersi Federica Mogherini dopo le consultazioni con gli iraniani e gli americani. Parlando da Praga, la responsabile della politica estera dell'Unione Europea ha detto che non c'è ancora una data, ma che l'attuazione dell'accordo sta procedendo bene. Una nuova sangata dell'antitrust europeo contro le multinazionali che cercano di evitare il fisco in Europa. Questa volta è finito nel mirino il Belgio per il suo schema di incentivi applicato a 35 aziende considerato illegale. Bruxelles chiede quindi al governo belga di recuperare da queste 700 milioni di euro di tasse evase. Il ministro della giustizia polacco Ziobro ha respinto le critiche tedesche su una nuova legge di controllo della stampa, paragonando gli ammonimenti tedeschi a monitorare la situazione nel paese, addirittura all'aggressione nazista della Polonia. E giorni fa il commissario europeo all'economia digitale Oettinger aveva detto che la Polonia dovrebbe essere supervisionata per i suoi tentativi di mettere il controllo statale i media pubblici, come pure dei suoi piani di riforma della Costituzione. 14:05:32. Vi saluto qui Daniele Biacchesi, vi ricordo la prossima edizione di Europa 24 questa sera all'interno di Effetto Notte. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.